Buonasera, vi do il benvenuto da parte della Biblioteca Claudia Augusta qui presso il Centro Trevi per la presentazione di questo libro organizzato in collaborazione con l'ANPI. E prima però di lasciare la parola vi voglio parlare delle prossime due iniziative che saranno la prossima settimana e la prima sarà lunedì 27, è il terzo appuntamento del ciclo su povertà, marginalità e mobilità e si presenterà il libro La persecuzione dei Rom e dei Sinti nell'Italia fascista con l'autrice Paola Trevisan e Francesca Brunetto. Mercoledì 29 invece ci sarà la presentazione del libro Verso casa dalla Valle dei Mocheni a Bolzano con Pinuccia Di Gesaro e Marco Pugliese. Lascio adesso la parola a Guido Margheri dell'ANPI e per la presentazione di questa serata. Buonasera, intanto grazie alla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta che come al solito è preziosa perché è disponibile a promuovere una serie di iniziative che in un qualche modo sono di frontiera, soprattutto in una situazione come quella attuale. Il libro che presentiamo, che si presenta stasera, senza voler togliere troppo tempo all'autore e a Giorgio Mezzalira, che ringraziamo, che si è ovviamente incaricato di non solo di promuovere l'iniziativa ma anche di prepararla e farà il dialogo con l'autore del libro. Il libro è importante per due motivi. Uno, perché come è un saggio prezioso che fa capire la natura del nazismo e perché il nazismo abbia avuto quelle risposte all'interno della società tedesca, radicandosi in pochi anni e diventando maggioritario. Ricordo tra le letture che si possono citare un saggio di Allen, Come si diventa nazisti, che analizza tutti i meccanismi con cui si passa, analizza tutti i meccanismi di un paese di circa 30.000 abitanti, la storia di quel paese e come in pochi anni si passa da una presenza assolutamente marginale del Partito Nazionalsocialista a una presenza largamente maggioritaria. Meccanismi sociali, meccanismi politici, meccanismi ma anche meccanismi psicologici. È molto bella la parte del libro in cui viene analizzato la capacità di Hitler, oltre che di sfruttare tutte le occasioni, anche di utilizzare la modernità, tutti i mezzi moderni. Questo fatto di poter fare, utilizzando l'aereo, la radio, le cose, comizi in più giorni, nella stessa giornata. Ed era l'unico leader in grado di avere questa immagine moderna e legata poi a... Poi ci sono tutti gli altri meccanismi. Il secondo elemento per cui è importante è perché questo libro è drammaticamente attuale, perché i meccanismi del populismo, della manipolazione, della forzatura dei meccanismi democratici, senza fare inutili parallelismi tra situazioni differenti, ma insomma mi sembra che abbiamo avuto proprio in questi giorni, domenica, anche se dall'altra parte del mondo, come dice Papa Bergoglio, alla fine del mondo, un esempio di che cosa voglia dire una manipolazione dei meccanismi e di tutti i meccanismi che conducono all'orientamento delle persone. E quindi questo libro è un allarme utile che ci aiuta anche a orientarci nella situazione di oggi. Credo che presentarlo a Bolzano, tra l'altro, che ha vissuto, se ci fosse qui Hannes Obermeier potrebbe dirci alcune cose, che ha vissuto due dittature, ha vissuto le manipolazioni e successivi lasciti che hanno lasciato e incrostazioni non solo nei monumenti ma anche nelle teste delle persone, credo che sia una bella cosa che lo presentiamo e soprattutto che ci facciamo una riflessione utile per capire il mondo di ieri, ma soprattutto per orientarci nel difficile mondo di oggi. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Chiedo in regia se possiamo già avere il nostro collegamento da remoto. Spieghiamo un po' come sarà l'andamento di questa presentazione, di questa serata. Abbiamo un fine lettore e recensore che ci accompagnerà in quella che è, diciamo, una lettura critica del volume di Davide Franco Iabes, che presentiamo fra poco. Poi ci sarà spazio per un piccolo intervento di Davide e eventualmente, se ci saranno domande, risponderemo volentieri, anzi l'autore risponderà volentieri ai vostri quesiti. Io dico solo due parole all'inizio, in parte ripetendo quello che ha appena detto Guido. Cioè, se io dovessi dire qual è l'importanza di quest'opera, premettendo che è un'opera faticosa, perché credo, di fronte alla montagna di pubblicazioni sul nazismo e su Hitler, sia particolarmente difficile muoversi e riuscire a fare una sintesi ben riuscita come quella di Davide Franco Iabes, sposando nello stesso tempo una correttezza di approccio scientifico a una spinta, stimolo, voglia di entrare nella divulgazione. E questo aspetto è, credo, una delle caratteristiche salienti di questa, di quest'opera, che va accolta proprio in virtù di quello che diceva Guido. Noi abbiamo oggi, lo sappiamo sia rispetto a un certo discorso pubblico sul fascismo, così come a un certo discorso pubblico sul nazismo, abbiamo anche una cosiddetta editoria generalista che sulle questioni di cosa è stato il fascismo, cosa è stato il nazismo, chi era Mussolini, chi è stato Hitler, ragiona e fa sviluppare discorsi che sono ormai talmente poco aderenti alla ricerca scientifica, all'avanzamento degli studi, che scivolano in quello che Guido giustamente definiva manipolazione. Dobbiamo fare molta attenzione a questo. Noi, per parte nostra, parlo, diciamo, per quello che riguarda a quella che è stata la storia del fascismo in Italia, sappiamo benissimo quanto esponenti della cultura, della politica, abbiano parlato del regime come di una parentesi in cui, insomma, si facevano anche delle cose buone. E insomma, rispetto a questo, la risposta che dobbiamo dare è evidente che è una risposta che va data su più piani, ma quello della divulgazione resta, se trattato con la dovuta accortezza, come ha fatto Davide Franco Iabes con il suo lavoro, resta uno di quei terreni di intervento e di impegno che vanno perseguiti. Chi è Davide Franco Iabes, che è qui alla mia sinistra? Diciamo che è uno storico, ha conseguito la laurea in storia moderna all'Università di Siena e il dottorato a York, in Gran Bretagna. Lavora come ricercatore indipendente, è un vero e proprio ricercatore d'archivio, lo dico per esperienza diretta, io credo di non aver conosciuto, e non è per piaggeria, una persona capace di muoversi negli archivi meglio di lui. Tra resto, non credo di svelare nessun segreto, è anche stato colui che ha curato tutte le ricerche storiche per tutti i libri della Lilli Gruber che hanno riguardato l'Alto Adige. È stato tra i pochi a entrare all'archivio Vaticano quando hanno aperto le porte ai documenti, insomma abbiamo di fronte un pozzo da questo punto di vista di conoscenza d'archivio, un classico tubo d'archivio. Potreste chiedere qualsiasi cosa. Sì, esatto. E saremo accompagnati anche in questa nostra presentazione da, e lo vedete alle mie spalle, Alessandro Romanello, che dopo gli studi di italianistica presso l'Università degli Studi di Bologna e la Scuola Normale di Pisa ha insegnato prima alle scuole superiori e ora è responsabile delle collezioni librarie moderne presso la Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei di Roma. È autore di numerosi e importanti saggi e a questo punto io cederei, se Davide sei d'accordo, direttamente la parola al nostro fine recensore. Bene, mi sentite? Sì, bene. Allora, buonasera a tutti. Alle mie spalle vedete una parte delle collezioni librarie dell'Accademia dei Lincei. Sono sul lavoro, in mezzo ai libri. Sono felice di essere con voi, avrei voluto essere di persona, ma le circostanze del lavoro non me lo hanno concesso. Devo dire una cosa, conosco Davide da diversi anni, è uno studioso di grande serietà e di altrettanto understatement, nel senso che ha una modestia straordinaria. Di questa sua biografia di Hitler abbiamo discusso perché per i casi della vita... Io sono appassionato anche di queste vicende, nel senso che io ho studiato molto le avanguardie del primo Novecento, mi sono occupato di Mussolini anche da un punto di vista proprio editoriale, nel senso che misi a posto il testo del diario di guerra 1915-17 pubblicato dal Mulino una volta che erano scaduti i diritti, e da appassionato di storia avevo letto di moltissime cose su Hitler, quindi quando mi ha parlato di questo libro ne abbiamo discusso molto. Allora, io posso dire da tecnico, da persona che vive in mezzo ai libri da una vita, che credo che si tratti di un'operazione oggettivamente straordinaria. Ora, si è parlato di divulgazione, ma io direi che in questo caso abbiamo una forma di divulgazione alta che... nulla toglie al rigore della ricerca. Ci sono diverse biografie di Hitler divulgative prive di note, per esempio. Qua abbiamo tutto un apparato di note che fanno riferimento alla migliore letteratura disponibile. E questo viene fatto letteratura non solo in italiano, in tedesco, in inglese, eccetera. Quindi un lavoro di sintesi oggettivamente straordinario. In anni in cui i lettori sembrano non avere la forza di affrontare biografie monumentali. Esistono delle biografie di riferimento di Hitler, come quella del Kershaw, prima di Fest, ora quella di Volker Ulrich, che constano di migliaia di pagine, ma forse c'è soltanto un pubblico limitatissimo per opere di questo genere. Oppure quella notevole che è stata tradotta per UTET di recente di Peter Longerich. Jabes, essendo uno storico, con anche con una curiosità straordinaria, perché, ripeto, conoscendolo di persona, a casa sua ci sono libri su molteplici argomenti, dalla numismatica alla storia militare, riesce a inquadrare un personaggio dalla complessità vorticosa, abissale, nelle coordinate esatte. Ora, non voglio sottrarre troppo tempo alla discussione, ma se noi semplicemente ci limitassimo a scorrere l'indice del volume, limitandoci proprio a scorrere l'indice del volume, abbiamo già tutta una serie di indicazioni. Allora, penso che già dal primo capitolo, intitolato Infanzia e giovinezza nella Belle Époque, Jabes centri il problema, perché Hitler non rappresenta soltanto un problema storiografico, ma in qualche maniera, senza scendere nello psicologismo spicciolo, anche un problema culturale e di psicologia delle masse. E in questo senso Hitler, come voi tutti sapete, diventa un uomo a Vienna dopo essere stato rifiutato dall'Accademia di Belle Arti ben due volte. Questa duplice ferita scatena una sorta di immenso risentimento che al momento non trova, come posso dire, un obiettivo. Al momento non trova un obiettivo. Hitler vive ai margini della società per anni, vive in una sorta di bohème disperata, anche se non farà mai veramente la fame, come è stato detto. Piccolo borghese aspira ad essere accettato dall'alta borghesia e viene da essa rifiutato. Il momento, diciamo così, della riscossa di questo fallito si ha con l'esplosione, con la prima guerra mondiale. Si arruola volontario con le truppe bavaresi, pur essendo austriaco e pur essendo stato riformato, ma nella confusione del momento viene accettato nell'esercito bavarese e, come porta di spaccio in prima linea, dimostra un certo coraggio. Per la prima volta le ossessioni ideologiche della giovinezza, quel confuso amalgama di nazionalismo, pangermanesimo, antisemitismo, che era moneta corrente ideologica nella Vienna dei suoi 20 anni, trova un obiettivo concreto, in qualche maniera, un obiettivo cui, come dire, collega, un obiettivo con cui venire a patti con la realtà. Terminata la guerra, per Hitler si pone il problema, e devo dire che queste pagine di Gabes sono assolutamente straordinarie, secondo me, perché per comprendere Hitler bisogna capire anche i suoi rapporti col mondo culturale ed artistico. Il giovane wagneriano, e non c'è nella storia, a mia conoscenza, nella storia della politica moderna, una figura così interessata alla musica, una figura così interessata per certi aspetti anche alla filosofia di Schopenhauer e Nietzsche. Non sappiamo quanto avesse letto Hitler, sappiamo che era un lettore vorace, ma autodidatta e unilaterale, come tutti gli autodidatti, quindi che tendeva a una sorta di dogmatismo. Ma il rapporto con la décadence, con la musica wagneriana, con l'ipnotismo di massa della musica wagneriana, è fondamentale per capire anche quella sorta di estetizzazione della politica, per usare le parole di Walter Benjamin, di cui poi si rivelò maestro negli anni della maturità. E la carriera di Hitler viene raccontata in maniera puntuale da Jabes. Uscì, terminata la guerra, rimane nell'esercito, rimane come informatore nell'esercito e scopre il proprio talento oratorio in una serie di corsi che servivano a nazionalizzare, diciamo così, le truppe, a non farli cadere in qualche maniera nella spirale del bolscevismo, anche se c'è l'episodio oscuro, di cui forse poi Davide vorrà parlarci, della sua adesione alla Repubblica dei Consigli nell'immediato dopoguerra. Ma possiamo tralasciarlo, e anche perché non abbiamo molte prove al riguardo, e vedere l'Hitler del 1919 che, su richiesta del capitano Karl Mayr, scrive ad un commilitone che gli chiede delle delucidazioni il suo primo scritto sull'antisemitismo. Una lettera fondamentale in cui si dice che bisogna lasciare l'antisemitismo emotivo del XIX secolo e sostituirlo con un antisemitismo razionale e radicale, il che fa preludere poi a passi ben più terrificanti, che forse conoscerete, del Mein Kampf. Fatto sta che è proprio come fondatore, come informatore dell'esercito, che Hitler si iscrive al Partito Nazionalsocialista, che allora si chiamava soltanto Partito Nazionalista dei Lavoratori, un'infima formazione di estrema destra. Lui si iscrive agli inizi del 20 e nel giro di pochissimo tempo lo domina. La forza di Hitler è il saper parlare. Lo scrive nel Mein Kampf: dopo aver arrigato dei gobbinitoni mi resi conto che avevo un dono. In realtà sembra che queste capacità oratorie ogni tanto saltassero fuori anche a Vienna, quando dormiva, abitava in questo dormitorio maschile, questo Mannerheim, in questo dormitorio, e viveva vendendo quadretti. Durante le discussioni politiche si accendeva per poi ritornare in una sorta di quieto e, come dire, ostile mutismo. L'oratoria hitleriana, da un punto di vista classico, avrebbe moltissimi difetti. Jabes descrive, direi, magistralmente come funziona un discorso di Hitler. gli inizi esitanti e poi la climax, il crescendo finale, quasi fosse una sorta di grande tenore eroico wagneriano, insomma. E nell'epoca dei primissimi mezzi di comunicazione di massa, nell'epoca anzi in cui per la prima volta si usano gli altoparlanti, insomma, e questa retorica hitleriana non fa presa su tutti, ma fa presa su chi vuole sentirsi ripetere questo tipo di luoghi comuni ossessivi e paranoici. Fa preda su masse diseredate in cerca di una redenzione. Il successo di Hitler come agitatore, ora non voglio entrare nella dinamica, diciamo così, nella struttura del libro che è estremamente chiara, il successo di Hitler come agitatore avrebbe potuto anche interrompersi se non si fossero determinate delle condizioni economiche straordinarie. Hitler è il re delle adunate di massa, organizza il partito in maniera ferrea e capillare, è anche un buon organizzatore, è un visionario con una straordinaria presa sulla realtà, e finché queste due caratteristiche apparentemente divergenti saranno parte della sua figura politica, non commetterà errori. Gli errori arriveranno dopo, quando comincerà a credere al suo stesso mito, insomma, in qualche maniera. Beh, vi dicevo, un partito organizzatissimo, una macchina propagandistica straordinaria, il gruppo dei fedelissimi è con lui fin dall'inizio, da Göring a Goebbels, ma in assenza della grande crisi economica di Wall Street, della caduta di Wall Street del 1929, Hitler sarebbe rimasto un'attrazione locale, una gloria della destra bavarese Völkisch. Infatti, alle politiche del 1928, Hitler incassa uno scarso, se non ricordo male, 2,6 o 2,8% dei voti. È con il peggiorare delle condizioni economiche, con la Grande Depressione, che segue il crollo di Wall Street, che Hitler trova la sua occasione storica e la sa sfruttare in maniera magistrale. Nelle elezioni del 1930 Hitler è il secondo partito in Germania dopo l'SPD. Nelle campagne elettorali successive, perché il sistema parlamentare weimariano era estremamente fragile e si andava continuamente ad elezioni, Hitler sfoggia un uso magistrale dei mezzi di comunicazione, per esempio i famosi voli sulla Germania, arrivare in aereo quasi fosse un messia dall'alto, l'uso dei cinegiornali, di dischi che riportavano i suoi discorsi, della fotografia, di tutto ciò che la tecnologia dell'epoca gli metteva a disposizione. Il massimo lo si raggiungerà con l'ultima campagna elettorale nel 1933, quando è già cancelliere e può avvalersi anche della radio di Stato. Dopodiché avremo addirittura i film celebrativi del regime, i due grandi film di René Riefenstahl, Il trionfo della volontà, sul congresso del partito a Norimberga nel settembre del 1934, e Olimpia sulle Olimpiadi a Berlino nel 1936. Quindi vedete un crescendo in ricchezza di dispiego di mezzi di comunicazione e di propaganda. Bene, sfruttando questa occasione, Hitler prende molti voti, ma non sarebbe mai arrivato al tavolo del potere, se non fosse successo ciò che spesso succede nella storia, ovvero la sottovalutazione di chi arriva dal basso. Gli Juncker, che facciano parte della cerchia ristretta del presidente Hindenburg, in particolare von Papen, convinsero alla fine il riluttante presidente von Papen, che l'aveva sempre definito un caporale boemo, perché confondeva la zona dell'Alta Austria dove era nato Hitler con la Boemia, a nominarlo Reichskanzler, cancelliere del Reich, nel gennaio del 1933, in un gabinetto in cui i nazisti erano in minoranza, pensando di poterlo controllare. ma questi potenti legati al passato, legati ai grandi latifondi, in parte anche alla grande industria, ma solo in parte, perché la grande industria passerà al nazismo soltanto dopo che il potere si è veramente consolidato, solo dopo il 33, prima solo pochi industriali si fidano del nazismo, vedendolo come una forma di estremismo di cui ci si può fidare assai poco. Bene, è soltanto grazie alla clamorosa sottovalutazione degli ottimati tedeschi che Hitler raggiunge il cancellierato. Von Papen disse in maniera molto tronfia e oggettivamente stupida: lo abbiamo preso a servizio, ma quasi si trattasse di un cameriere. E invece, nel giro di pochi mesi, con il coordinamento e l'accentramento di tutti i poteri, Hitler spazza via quel che rimaneva della democrazia in Germania. Il 14 luglio del 1933, una data simbolica, ma in questo caso usata in maniera antinomica, in Germania rimane un partito unico. Da questo momento in avanti, Hitler si muove in due direzioni. Da una parte, eliminare gli ultimi residui di antagonismo all'interno, e nel 1934, con la notte dei lunghi coltelli, elimina le vecchie SA, le squadre di protezione del capitano Rom, che volevano una seconda rivoluzione, ma in questo momento a Hitler conveniva un'alleanza con l'esercito, con i conservatori. C'è quindi un lato machiavellico, realistico in Hitler, oltre a quello visionario. Vi ripeto, come vi dicevo prima, il lato visionario e quello realistico vanno assieme in Hitler. Ciò gli consente queste performance politiche, diciamo così, e il fatto che si trovasse di fronte a un mondo in via di decomposizione, la fine dell'Ottocento degli aristocratici, insomma. Da un lato si rafforza all'interno, dall'altro comincia le prime mosse in politica estera, dapprima con il concordato con la Santa Sede nel luglio del 33, poi uscendo dalla Società delle Nazioni, poi con lo strabiliante patto decennale di non aggressione con la Polonia, nemico storico della Germania, che serve a indebolire la piccola intesa francese, dei francesi nell'Europa dell'Est, e a rimettere in moto il gioco diplomatico in tutta Europa. Ora, io ho parlato già troppo, da recensore questo è soltanto l'inizio. In meno di 300 pagine, sono 287 compreso l'indice, 287 pagine, Davide Jabes racchiude una vicenda terrificante, mostruosa e straordinaria, di cui io vi ho raccontato soltanto i primi anni. Il libro a un certo punto ha una cesura, di cui abbiamo pure parlato con Davide. Quando dalla fase politica si passa alla fase militare, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, sembra quasi che la figura di Hitler, che prima dominava, si sciolga nei fatti bellici. Ma ciò è assolutamente inevitabile, poiché da quel momento Hitler non ha più vita, si rinchiude nei quartieri generali e si occupa di cose militari dalla mattina alla sera, rovinandosi alla fine anche la salute e perdendo la lucidità che era stata sua. Davide affronta tutte le questioni fondamentali di una biografia imperiale, di una biografia hitleriana, da quelle sociologiche alla gestione del consenso, a quelle militari, che spesso nelle grandi biografie hitleriane sono lasciate in secondo piano, con chiarezza, acume, precisione e profondità. Vi faccio soltanto un esempio, quella che io continuo a ritenere, da un punto di vista letterario, perché io di formazione sono italianista, la più bella biografia di Hitler, quella di Fest, dedica alla Seconda Guerra Mondiale, dedica all'Hitler dal 39 al 45 meno di un terzo del libro. C'è una sproporzione enorme tra fino al 1939 e dopo. Davide, in maniera diversa, dà un... anche perché Davide ha lavorato nell'ambito della storia militare, in maniera diversa e equilibrata dà il giusto peso a tutte le componenti, dalla mozione degli affetti alla tattica e alla strategia militare. Quindi è una lettura che consiglio veramente a tutti, poiché non solo è agevole, ma dà adito a grandi occasioni di riflessione. Le conclusioni in particolare sono illuminanti sulla sopravvivenza e la fortuna della figura di Hitler, per esempio in tanta politica del terzo mondo, in certi paesi dell'Asia, senza facili e tutto sommato banali attualizzazioni. Io mi fermerei qua per il momento, se non ci sono richieste da parte di qualcuno. Grazie Alessandro Romanello. Credo tu abbia presentato uno scenario, una panoramica abbastanza esaustiva per quanto riguarda la prima parte, della vicenda, della biografia di Hitler. Lascerei che Davide magari sinteticamente ci presentasse anche la seconda parte anche aggiungendo questa ultima considerazione sulle conclusioni, che a me pare anche molto, sì, molto interessante. E comincerei a darti uno spunto per affrontare queste due questioni, partendo da un'opinione quasi comune che considera Hitler un mostro. È realmente un mostro, cioè non è una persona, ma è un mostro? Buonasera. No, Hitler non è assolutamente un mostro, è una persona come tutti noi che ha fatto cose mostruose, ha pensato cose ancora più mostruose, scenari che ci fanno certamente orrore. Per quanto riguarda la seconda parte della biografia, se vogliamo dire così, anche una domanda che mi ha fatto Alessandro Barbero quando ha letto il libro, mi ha detto: Davide, ma nella prima parte c'è tanto di questa persona, no? Anche qualche sfumatura quasi comica, mentre nella seconda parte scompare, cioè non abbiamo più in buona sostanza delle testimonianze di come lui si comportava con gli altri, di cosa dicesse. E questo io gli ho risposto: guarda, le fonti si cambiano totalmente, perché dal momento in cui nel 1939 scoppia la guerra con la Polonia e due giorni dopo arrivano le dichiarazioni di guerra di Francia e Inghilterra, quest'uomo sparisce appunto nel gorgo delle operazioni militari e si disinteresserà completamente della gestione dello Stato per diventare il signore della guerra. Cioè, avremo una figura completamente diversa, e completamente diversi saranno coloro che ne parleranno, e ne parleranno non più in misura dove c'è adorazione, oppure semplicemente dell'astio o della diffidenza da un punto di vista politico. Non è più un politico, è un generale, il capo supremo della Wehrmacht. E coloro che ne parleranno saranno attendenti, guardie, generali, feldmarescialli. E questo discorso sarà potentemente viziato nel dopoguerra da una volontà di questi signori di tirarsi fuori dalle loro responsabilità. Cioè, assisteremo negli anni 50, soprattutto in una calcolatissima, un calcolatissimo ripescaggio di molte figure del nazismo, e qua mi ricollego a quanto diceva Giorgio, sull'eredità, sulla pesante eredità del nazismo che entra non solo all'interno dell'Europa, ma entra addirittura in alcuni canali statunitensi, sia attraverso il fatto che ben più di 2000 ex ufficiali delle SS e soprattutto esperti, cosiddetti esperti della lotta anticomunista, vengono assoldati dalla CIA, e fatti andare prima tramite la Chiesa in Sud America e poi dopo ripescati all'occorrenza a servizio appunto degli Stati Uniti d'America, quando non sono invece in Egitto o nei paesi arabi a lavorare contro lo Stato di Israele. È impressionante il fatto che sicuramente le poche testimonianze della persona Hitler sono date da Bormann, e Bormann è un personaggio abbastanza inaffidabile da un punto di vista storico, non è considerato una fonte attendibile, è stato ultimamente attenzionato da uno studio molto serio che sostiene che molte delle circostanze di cui narra sono false. Quindi davvero, a parte Goebbels e a parte qualche cosa, c'è veramente poco. C'è molto poco su una delle questioni centrali dell'agire hitleriano, cioè sulla persecuzione ebraica. C'è poco sul fatto, tant'è vero che David Irving ha potuto in qualche misura sfruttare questo silenzio, questo ermetismo hitleriano nell'esprimere determinati ordini nei confronti degli ebrei, sebbene tutti ricordano il famoso discorso che fece alla Sport Palast, dove disse che se l'ebraismo mondiale avrebbe trascinato il mondo in guerra, questo non sarebbe stata la vittoria del bolscevismo, ma sarebbe stata la distruzione, avrebbe rappresentato la distruzione di tutto l'ebraismo in Europa. Poi appunto, però, nonostante queste fortissime affermazioni di principio nei confronti degli ebrei e di volontà, chiaramente esce fuori come una volontà e un'ispirazione per l'azione antiebraica, non abbiamo un ordine scritto che dica uccidete tutti gli ebrei oppure date l'avvio alla soluzione finale. Sappiamo che si è incontrato ben 150 volte con Himmler nel corso del 1941-1942 e certo in quel periodo si è visto così tante volte Himmler non era per giocare a scacchi, ma probabilmente per dare delle direttive precise su quello che sarebbe accaduto prima e durante l'invasione dell'Unione Sovietica, vero grandissimo spartiacque dell'azione nazionalsocialista, invasione che faceva comunque parte dei suoi piani programmatici, era già lì scritta dal 1923 sul Mein Kampf. Io di questo do conto appunto nella seconda parte del libro e parlo di come alcune tesi che erano espresse non solo da lui, prima di lui erano espresse da molti esponenti del movimento pangermanico. In realtà Hitler non ha inventato nulla di nuovo, quello che ha inventato di nuovo è stato fondamentalmente il metodo di trasmissione di certe idee e l'utilizzo di quella sapiente arte scenografica che lui aveva dato, che lui aveva avuto modo di vedere soprattutto a Vienna quando andava da ragazzo a tutte le sere ad ascoltare Wagner, insomma intervenire nell'acchiappare le masse, nel prenderle, nel portarle a quello che era il suo disegno, facendole credere che fosse il loro. In realtà sappiamo benissimo che nel 1939 la Germania, soprattutto la gran parte dei tedeschi, tutto voleva fuorché un'altra guerra. Ce lo testimoniano i festeggiamenti del 1938 a Monaco, quando Chamberlain sfila per le strade di Monaco viene salutato così calorosamente che Hitler è geloso addirittura, e quindi lui sa che questo popolo non la vuole la guerra. Chi del resto vorrebbe scientemente portare il proprio paese in una guerra contro qualcun altro senza un obiettivo preciso? E, eppure, come appunto un pifferaio magico che è sempre stato evocato quando si parla di lui, riesce a far credere a tutti quanti che il bene del paese è in determinate cose, qual è la difesa delle minoranze. Ecco, sulle minoranze ci sarebbe molto da dire, soprattutto tenendo conto dell'uso strumentale che è stato fatto recentemente, senza voler indicare nessuno davvero, ma entrambe le nazioni in conflitto oggi hanno usato strumentalmente questa carta nel dire che difendevano gli interessi patri, e lo vedrete nel libro, è impressionante, addirittura le parole sembrano le stesse. Quindi ecco, io ho parlato fin troppo, la mia volontà era piuttosto di dialogare con voi più che di annoiarvi a morte. Credo che la lettura sia più interessante che ascoltare l'autore. Ho avuto dei complimenti incredibili, non credo di meritarli, però questo libro era davvero, rappresenta un percorso quasi di una vita, nel senso che sin da bambino mi sono chiesto perché quest'uomo ce l'avesse tanto con la mia famiglia, perché quando ero piccolo per me appunto era semplicemente uno dei, più che uno, l'ultimo dei grandi cattivi, da Amalek fino ai giorni nostri, che ha tentato di distruggere il popolo ebraico. Dopo è diventato qualcosa di più serio, ovviamente, e però è sempre stato con me questo desiderio, pur non essendo io uno specialista di nazionalsocialismo, di affrontare il tema e di cercare di spiegarlo a me e poi agli altri. Grazie. Volevo dire una cosa, se posso. Se possibile, volevo dire soltanto una cosa. Alessandro, Alessandro, mi senti? Sì, Hai un profilo molto mussoliniano. Ti ringrazio. Purtroppo la telecamera mi rende peggio di quel che sono. Allora, sentite, volevo dire soltanto una cosa. Per tornare alla questione della presenza del personaggio Hitler all'interno di una biografia, è un tema colossale. È un tema che riguarda anche gli appassionati di letteratura, di scrittura, ma per dirlo in due parole, durante gli anni di guerra Hitler come personaggio, come persona, scompare completamente. Tutti i biografi parlano di una sua stilizzazione, di una sua monumentalizzazione, quasi che questa forma di solennità indotta potesse in qualche maniera alleviare la tragedia della sconfitta che Hitler rifiutava di ammettere. E dopo Stalingrado, Davide me lo può confermare, Hitler arriva ad una sorta di vera e propria negazione della realtà, che arriverà al culmine nel bunker, quando, di fronte alla fine certa, contempla ancora i plastici della grande trasformazione urbanistica che voleva imporre a Berlino, che sarebbe divenuta Germania, e alla città della sua adolescenza, Linz in Austria, che sarebbe divenuta nei suoi sogni un centro culturale superiore a Vienna. Anche qua sempre il rassentiment del provinciale nei confronti della metropoli, no? Ma il personaggio Hitler è enigmatico perché già Joachim Fest dedicò la parte proprio sulle caratteristiche psicologiche della persona, dedicò un capitolo intitolandolo Ritratto di una non persona. Hitler era un maestro di mistificazione e dissimulazione. Davide, infatti, con molta intelligenza si astiene da ogni forma di psicologismo. Il personaggio Hitler è molto presente all'inizio, nella prima metà del libro, perché da un lato il suo fiuto politico lo porta lontano, dall'altro tutto il meccanismo del consenso è innervato sul mito del Führer, sommo sacerdote allo stesso tempo divinità di questa sorta di religione politica che è il nazismo e che celebra, come posso dire, le sue festività in un calendario fittissimo che culmina col grande congresso annuale. Ecco, volevo aggiungere solo, quindi diventa estremamente difficile per uno storico cimentarsi in una biografia di Hitler. Non a caso, se ben ricordo, che Ian Kershaw, il grande storico inglese che ha scritto una delle più importanti biografie hitleriane, c'è arrivato dopo studi minori, dopo altri tipi di studi. Inizialmente non voleva assolutamente scrivere una biografia di Hitler, ritenendola qualcosa di sostanzialmente impossibile se non sospetto. Ecco, volevo aggiungere solo questa piccola chiosa, ringraziandovi ancora. Grazie Alessandro. Io prima di girare il microfono al pubblico, sicuramente qualche domanda, qualche curiosità sul tuo lavoro c'è, volevo riportarti alle conclusioni, o meglio, è una pubblicazione che appare nel 2023 e ovviamente scrivendola tu anche nelle conclusioni sei assolutamente consapevole di quello che può significare il contesto in cui questa pubblicazione appare. Quindi in questo dialogo tra il presente e il passato, insomma, che valore pensi possa avere questa tua pubblicazione dentro un contesto come quello di oggi? Senz'altro, leggendo quale fosse l'alleanza tra l'industria, la grande industria, gli interessi dei più forti, tra virgolette, per dirlo in super sintesi, e lo Stato, uno Stato autoritario, ci accorgiamo di quanto l'individuo sparisce e ci accorgiamo di quanto sia importante non arrivare a questo. Poi, ripeto, credo che ognuno di voi, se metterà mano al libro, potrà trovare delle analogie, ma soprattutto io a un certo punto parlo di Ford. Ford è un grande stimatore di Hitler e viceversa, ed è ricambiato. Il fordismo, sapete di cosa si tratta, ha in antipatia qualsiasi sindacato, qualsiasi esigenza dell'operaio. È lo Stato che va incontro al produttore e il produttore che va incontro allo Stato in un'alleanza, in una simbiosi che è schiacciante per l'individuo. Cioè l'individuo non tende a scomparire sotto le maglie di queste due pressioni. Per fare un esempio, non vorrei farlo, ma così ci capiamo tutti meglio. Quanti giornalisti hanno affrontato il problema di Amazon facendosi assumere, entrando dentro e raccontando come funziona questo Amazon, dove se tu fai una pausa per il caffè o vai in bagno, vieni, cioè in Occidente, non in Cina. Siamo stati abituati per anni a parlare della Cina come un posto dove la gente si suicida. Ebbene, in Occidente ci sono delle persone pagate per cronometrare quanto un operaio ci mette a fare pipì. Allora ecco, di fronte a queste cose siamo proprio certi che il nazismo abbia perso? Siamo sicuri che quei manager che erano all'interno del Terzo Reich e che sono stati subito ripresi e sponsorizzati anche in parte dagli americani per ricostruire il paese siano dalla parte del perdente? Io non ho questa certezza. Bene, io girerei il microfono a voi, forse qualcuno vuole porre una domanda, fare un breve intervento. Prego. Questo bene. Buonasera. Io volevo chiedere, nel Mein Kampf Hitler ha dato molto risalto al discorso della razza ariana. Volevo chiedere se lei, come lei ha trattato questo argomento. E nel libro c'è un capitolo sulla Shoah, e lungo il corso di tutto il libro naturalmente c'è questo avvicinamento lento, prima lo sfruttamento da un punto di vista propagandistico della coltellata alle spalle, cioè dell'azione degli ebrei, di quello che secondo Hitler era stata l'azione ebraica durante il primo conflitto mondiale, quindi fregandosene, scusate il termine, ampiamente di tutti gli ebrei che sono morti per il Reich, perché nelle file dell'esercito imperiale tedesco c'erano moltissimi ebrei, tant'è vero che un tenente che stava sopra Hitler era appunto ebreo durante la prima guerra mondiale, e anche il capitano che gli concede la croce di ferro era un altro ebreo. Quindi in barba alla realtà descrive un complotto, un discorso di solito complotto ebraico, come nel Settecento c'erano quelli dei gesuiti, descrive un complotto ebraico che paralizza le spalle l'azione militare tedesca. Da lì strumentalmente si aggancia anche a teorie pseudo scientifiche, ma molto pseudo. Ricordiamoci che comunque non c'era il DNA, ma degli studi sul sangue già la dicevano molto lunga su quanto fossero delle fesserie, quanto andava dicendo Hitler. E certo non, il discorso della razza è un discorso di ampia giustificazione legato alla geopolitica hitleriana. In fondo anche la stessa geopolitica è un po' determinista, ecco, ammettiamolo, cioè c'è una componente determinista all'interno della geopolitica, laddove si dice, beh, in fondo la posizione geografica di questo popolo ha reso più facile il fatto che fosse più dedito al lavoro, quest'altro meno dedito a quel tipo di attività, eccetera, eccetera. Non voglio dire che siano nazionalsocialisti, ma certo facilita il discorso della razza, ecco, facilita la semplificazione un'altra volta, perché poi appunto sempre di semplificazioni parliamo per poter fare velocemente presa sulle masse. Quindi è il discorso della razza è assolutamente strumentale, a mio giudizio, nel percorso hitleriano. Grazie. Prego. Ci sono voi qui davanti. Sì, io vorrei un po' riprendere il discorso sulle cause del nazismo a potere, quindi di Hitler. Credo che non bisogna mai dimenticare il Trattato di Versailles, no? E quello, soprattutto la scelta che fece quel grande economista di John Maynard Keynes di abbandonare i lavori, perché disse che appunto la Germania era stata umiliata perché le erano stati sottratti dei territori. Quindi anche questo sollecitò, fra le tante cause, l'andata al nazismo al potere, quindi Hitler. Volevo porre una serie di questioni. Dunque, Hitler è al potere per 12 anni, dal 33 al 45 grosso modo, e ne combina tante, tra cui purtroppo la Shoah. Lei condivide l'impostazione dato da Hildeberg sulla responsabilità individuale dei tedeschi, ripreso poi in quel bellissimo film di Charles Lanzmann sulla Shoah? Seconda questione, il nazismo continua ancora a esserci per alcuni versi. Ricordo che addirittura il presidente della Germania, il fautore della Ostpolitik, Willy Brandt, aveva a suo fianco il signor Konrad, no, oggi poi incriminato dal da De Paulis di La Spezia come crimine di guerra, no? Poi è vissuto fino a 90 anni in serenità, e anche questo è una cosa che ci deve far riflettere, cioè i criminali nazisti vicino a Hitler che si sono fatti conoscere in Italia. E come lei segnalava, in Sud America, io ricordo, vorrei ricordare qui che nel mondo arabo circola in Mein Kampf, è uno dei libri più venduti. Ai bambini... Ah, lo so bene, perché ero ad Alessandria 10 anni fa e l'ho visto all'interno della biblioteca in mano a tantissimi studenti. Ora, la si può pensare come si vuole dopo quello che è successo il 7 ottobre, però a me è impressionato quel balletto intorno a quel bambino ebreo dei bambini palestinesi di Gaza, quindi educati proprio all'odio attraverso questi strumenti. Ecco, io vorrei che su queste ultime due questioni potesse esprimere un parere. La ringrazio. Allora, sulla prima questione farei rispondere Alessandro, sulla seconda risponderei io. Sei d'accordo, Alessandro? Va bene, sì, sì. Ho la parola? Sì. Allora, penso di poter dire che Davide sia d'accordo in linea col libro sulla distruzione degli ebrei d'Europa di Hilderberg, e anche con il grande film di Claude Lanzmann sulla Shoah. Penso che tra il lavoro di Davide e questi lavori molto più analitici, ovviamente, non vi sia nessuna contraddizione, per quello che è il mio modo di sentire. Vorrei aggiungere una cosa: in particolare, quando leggerete il libro, se lo leggerete, il capitolo sulla soluzione finale ha una densità straordinaria, perché mi è capitato di discuterne con l'autore, lui affronta l'argomento e poi circolarmente ci torna, poi ci ritorna, è come se gettasse un sasso in uno stagno e osservasse tutti i cerchi sempre più ampi che si determinano, cioè l'abissalità metafisica di quello che è successo lo porta a ragionare quasi in modo teologico, confrontandosi con questo male assoluto, che in quanto tale è sia perfettamente comprensibile che del tutto incomprensibile allo stesso tempo. Almeno questa è stata la mia impressione, quindi non vedo nessuna contraddizione tra i testi storici e cinematografici che lei ha citato e il lavoro di Davide. Ecco, questa è la mia risposta. Per quanto riguarda la seconda domanda, siccome le suggestioni sono state tante, vorrebbe ridurre la sua domanda a un punto, in modo tale che io possa rispondere sinteticamente. Allora, la responsabilità individuale era tendeva a scomparire, un po' come scompare in tutte le guerre. Naturalmente qua c'era una responsabilità da parte dei civili, dei singoli cittadini, enorme. Così come succede per tanti altri conflitti, o come è successo per altri genocidi, perché purtroppo il XX secolo è stato il secolo dei genocidi, a partire da quello degli armeni ad andare a Ruanda, eccetera, eccetera. Quindi, però un dato è certo: quando scoppia una guerra, e questo è stato assolutamente affrontato da tutti gli studiosi, cambia completamente nella società il set di linee morali, se le vogliamo definire così. Non è più una cosa strana vedere un morto per terra, non è più una cosa assurda sapere di tirare in testa una pallottola a una persona. Non è più assassinio, è una dimensione totalmente estranea alla dimensione di tutti i giorni. Tant'è vero che poi questa eccezionalità, quando viene vissuta molto intensamente, o viene vissuta costantemente, diventa qualcosa da cui è impossibile liberarsi. e di questo ne hanno fatto le spese molti combattenti del Vietnam. Quindi non voglio ancora una volta sottolineare che c'è un carattere di eccezionalità nell'agire tedesco, perché non è vero. C'è un carattere di eccezionalità nell'agire in una dimensione di guerra o in una dimensione di politica che prende il sopravvento sul pensiero del comune cittadino. Grazie. Una domanda più semplice. Allora ho scoperto stasera che comunque Hitler aveva fatto un concordato con la Chiesa, non lo sapevo, come Mussolini l'aveva fatto anche con la Chiesa. Allora la mia domanda è questa: la Chiesa sapeva dei campi, eccetera, c'è stata una certa ambiguità nel comportamento, non è andato fino in fondo, non è che questi concordati, che significava soldi, immagino, eccetera, no? Non è così, la Chiesa non è stata condizionata. Poi, visto che lei ha aperto tutti, è andato a vedersi gli archivi, non lo so, questa è una cosa che mi piacerebbe chiarire. Certo. E allora, il discorso della Chiesa va preso più alla lontana, esattamente nel 1917. Nel 1917 scoppia la rivoluzione in Russia. Cosa succede in Russia? Che viene un regime che dà fuoco alle chiese, uccide i preti, uccide talvolta i religiosi a messa. Ci sono delle novità da un punto di vista del cambiamento di regime che per la Chiesa sono il male assoluto. E questo non per un fatto di semplice differenza filosofica, ma proprio perché la Chiesa ha i suoi nunzi apostolici ovunque, e i nunzi mandano alla segreteria di Stato delle missive dove dicono: guardate che qui è una cosa incredibile, questi vogliono portare la rivoluzione in tutto il mondo e uccidono i preti. Il primo obiettivo è distruggere la religione per portare poi un altro tipo di fede, ma una fede politica, ma comunque una fede. La Chiesa diventa, in tutti i conflitti che precedono la Seconda Guerra Mondiale, diventa nemica di tutti i comunismi. Abbiamo la Chiesa impegnata a fianco di Franco durante la guerra civile spagnola, abbiamo la Chiesa impegnata a fianco del Giappone imperiale durante la presa della Cina. Quindi abbiamo una situazione incredibile dove la Chiesa è una delle prime istituzioni statali che riconosce il Manciukuo, cioè lo stato della Manciuria, che è uno stato marionetta dell'esercito, cioè dell'impero giapponese. Però questo non vuole essere un atto d'accusa per la totalità della Chiesa. La Chiesa è un'istituzione enorme e al suo interno ha tantissime voci, quindi non possiamo dire tutta la Chiesa vuole questo, vuole quello. No, all'interno della Chiesa abbiamo dei pensatori straordinari che si oppongono, che chiedono spesso di parlare col Papa di determinate cose e di portare avanti anche non tanto la difesa degli ebrei, perché ripeto, questa cosa della Shoah, questa polemica con la Shoah, che cosa ha fatto la Chiesa per gli ebrei, cosa non ha fatto, è un qualcosa che viene dopo, che viene successivamente. Rendiamoci conto che quando muoiono quei 6 milioni di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, ci sono altri 55, 60, 70, non lo sapremo mai il numero esatto dei morti durante la Seconda Guerra Mondiale, che muoiono di morte violenta, di malattie, di fame, di disperazione. Quindi la Chiesa, da un punto di vista istituzionale, è preoccupata per l'ordine mondiale, per la fine delle sofferenze. Però allo stesso tempo ritiene che l'origine del caos e dei mali della terra sia il comunismo. Non possiamo assolutamente slegare l'azione della Chiesa di Pio XII, perché naturalmente la Chiesa di Giovanni XXIII è già ben altra cosa, ma la Chiesa di Pio XII è una Chiesa che ha come primo obiettivo, ancor più di quella di Pio XI, che invece con un'enciclica voleva denunciare quello che accadeva in Germania, perché Pio XI era stato diversi anni a contatto con la dittatura totalitaria e quindi la voleva combattere a un certo punto. Però invece durante la guerra abbiamo questa sostanziale posizione non tanto di accordo ma di convivenza forzata tra la Chiesa e il nazionalsocialismo. Quando il cardinale e soprattutto il nunzio parla dell'accordo che citava lei prima, dice vabbè, diamogliele vinte tutte per pur di avere un baluardo contro il comunismo. Grazie. Ancora due domande, prego. Grazie. Una domanda forse banale, non lo so, se nel libro si fa riferimento fra le follie di Hitler, il sodalizio con Mussolini, mi viene in mente, chiaramente mi riferisco all'Alto Adige e quello che è successo che a seguire le famose opzioni, l'inganno che è stato effettuato a danno della nostra popolazione di madrelingua tedesca, che in molti dei quali hanno deciso poi di andare in Germania, e dove si sono trovati, hanno capito che hanno trovato un inganno, perché se stavano qui italianizzazione di Mussolini li spaventava e temevano di finire in Sicilia o quant'altro. Ecco, questo accordo che ha generato questi fenomeni veramente strazianti per la nostra popolazione sicuramente fa parte di un suo disegno o ha un ruolo diverso, diciamo, rispetto alle sue mire. Viene affrontato in modo marginale non la questione delle opzioni ma la questione su Tirolo. Io cito il passaggio in cui nel Mein Kampf lui dice sì, mi dispiace tanto per i nostri 200.000 fratelli, ma non è che io mi posso guastare relazioni con l'Italia quando ho milioni di altri fratelli che sono in Russia, sono in Cecoslovacchia, sono in Polonia, che aspettano la liberazione. Cioè, questi si attaccano al tram, chiedo scusa per la semplificazione. Ecco, quindi no, dice, questi qui no, non possiamo privarci dell'amicizia dell'Italia. Se poi posso aggiungere qualcosa brevemente sulla questione delle opzioni, è evidente che Hitler aveva interesse di iniziare la propria conquista dell'Europa e voleva togliersi finalmente il problema altoatesino, e il patto con Mussolini garantiva un alleato da una parte e dall'altra parte la soluzione del problema possibilmente in maniera definitiva, e a Hitler tutti gli optanti sarebbero serviti come carne da cannone o per l'industria bellica. Quindi esatto, e quindi questo patto va collocato in questo contesto e con questi obiettivi. C'era ancora una domanda? Scusate, volevo aggiungere una cosa. Il padre della Lilli Gruber aveva tre fratelli, sono morti tutti e tre sul fronte orientale. Andare, la sua poesia, ma la Prego. E questa macchina bellica che in 6 anni ha costruito Hitler, nei suoi archivi, in queste cose qua, in realtà per fare le cose ci vuole il ferro, il fuoco, ci vuole l'energia elettrica, eccetera. Però ci vogliono le finanze, di solito i soldi puzzano. Chi ha finanziato questa macchina bellica mostruosa in soli 6 anni? Si sa, ha trovato qualcosa? Sì, allora, per quanto riguarda il passaggio alla Wehrmacht, che prima invece era un altro... esatto. Reichswehr. No. Sì. Reichswehr e poi Wehrmacht. E allora sappiamo naturalmente che un ministro ha dato le dimissioni perché già nel 1936 era chiaro che si andava verso un deficit spaventoso, un debito mostruoso, e quindi questo ministro delle finanze diede le dimissioni perché aveva ben capito che non si andava da nessuna parte se non si agiva direttamente con una guerra di rapina, cosa che poi puntualmente è avvenuta. Esatto. Nel 38, la prima rapina è l'annessione dell'Austria, dove si mettono le mani su diversi asset, ma la più grande rapina è successivamente, pochi mesi dopo, in Cecoslovacchia, perché lì abbiamo, proprio parlando di forniture militari, abbiamo il furto di tutto le forniture dell'esercito cecoslovacco, tutte, e Hitler riuscì ad armare con quegli armamenti altre 30, se non vado errato, altre 30 divisioni. Quindi grazie a quegli armamenti riuscì ad avere un esercito ancora più forte per poter affrontare la Polonia, e quindi di aggressione in aggressione l'impero si autofinanziava, sebbene avesse chiaramente una spirale che andava verso un debito mostruoso, però c'era questo Stato che rapinava sostanzialmente i suoi cittadini, perché 400.000 cittadini tedeschi erano ebrei, e questi perdono tutto. Quindi anche qua abbiamo un drenaggio di risorse che non appartenevano allo Stato e che vengono inglobate all'interno dello Stato. Tra queste risorse ci sono intere fabbriche, insomma, non poca roba. E quindi tra il furto all'interno del paese, colpendo dei cittadini, tra il furto di altre nazioni, come nel caso della Cecoslovacchia, si riesce ad arrivare a un punto in cui... si può fare la guerra, tant'è vero che se non si fossero piegati Francia e Inghilterra di fronte alla possibilità di aprire un conflitto con la Germania e avessero tenuto il punto, magari alleandosi con la Russia, facendo uno sforzo micidiale alleandosi con la Russia, ci sarebbe stato probabilmente un colpo di Stato interno che avrebbe rovesciato Hitler, ordito da Canaris. Invece, proprio perché? Perché non c'erano le basi per fare una guerra contro l'Inghilterra e la Francia in quel momento. Esatto, non c'erano le basi. Poi dopo queste basi ci sono, però. Bene, grazie. Grazie. Prima di chiudere vi ricordo che qui al tavolo, grazie alla nuova libreria Cappelli, sono a disposizione alcune copie in vendita del libro di Davide Jabez, se volete acquistarlo. E ringraziandovi della partecipazione, vivace anche, grazie. Salutiamo sia Alessandro Romanello che Davide Franco Jabez. Grazie ancora.